Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori e buonasera al professor Giulio Sapelli. Buonasera a lei e agli ascoltatori. Giulio Sapelli, professore ordinario di storia economica dell'Università di Studi di Milano, ha una lunga carriera alle spalle, ma anche di fronte a sé, editorialista del Corriere della Sera, un attento osservatore della realtà italiana, ha scritto recentemente anche un libro dedicato al governo Monti, ma questa sera parliamo di un libro un po' diverso, si intitola Diario Sudamericano e racconta un po' l'esperienza, la sua lunga esperienza di viaggi e di soggiorni in Sud America. Ecco, come è nato, professor Sapelli, questo libro e soprattutto come è nata questa esperienza sudamericana? Beh, il libro è nato a sprazzi, per immagini. È un libro che ho scritto nel corso di 6 o 7 anni, un po' come quando James Joyce parla delle sue epifanie, quando gli venivano alla mente episodi della sua vita. Generalmente parlava dell'infanzia, no, io invece parlo di un'avventura che è stato il mio incontro col mondo sudamericano che inizia pochi mesi prima del colpo di Stato in Cile nel 1973, quando mi ero recato lì con una delegazione politico-umanitaria di cattolici, sindacalisti, centri di sinistra. Io allora ero un iscritto alla Federazione Giovanile Comunista, pur essendo un cattolico un po' atipico, forse un comunista un po' atipico. Eravamo andati in Cile per cercare, dato che eravamo convinti che ci sarebbe stato, ahimè, un colpo di Stato, per cercare di far uscire clandestinamente gli uomini politici, esponenti anche della Chiesa, eccetera. Fu un viaggio per me sconvolgente, il primo. Io sono nato nel 47, si può immaginare che ero giovanissimo, e di lì poi è nata una passione per l'America Latina che ho potuto coltivare sia insegnando per molti anni nei mesi estivi qui da noi e invernali al Master di Economia Mondiale dell'Università di Buenos Aires, l'ho fatto per circa 13 anni, e poi facendo l'advisor di una grande compagnia di telecomunicazioni italiana che in un periodo preciso della sua storia ha fatto dei grandi investimenti nei paesi sudamericani. Io ero responsabile, mi misi in congedo un anno dell'università per la strategia e la formazione dei quadri latinoamericani, e poi sono andato giù molte volte in missioni, come si potrebbe dire, attraverso una ONG, occupandomi di educazione dei lavoratori. Ho fatto anche un'esperienza con la Caritas, ha toccato quasi tutti i paesi sudamericani, ma soprattutto Ecuador, Cile, Argentina e poi negli anni più recenti anche molto il Brasile. Ecco, com'è cambiata l'America Latina in questi 30 anni? Come sono cambiati questi paesi? Si può parlare ancora di America Latina come di una unità, oppure ogni paese ha la sua storia, la sua originalità, ha i suoi problemi? Ogni paese latinoamericano ha la sua storia. Voglio dire, noi è un po' la stessa cosa di cui che si parla dell'Europa, no? Si parla, quando si dice l'Europa, come quando fa un americano guarda l'Europa, poi non sa dove è la Grecia, pensa che la Grecia sia confinante con l'Egitto. Molto spesso gli europei parlano dell'America Latina e pensano che la storia politica e economica del Cile sia la stessa dell'Argentina, invece non c'è nulla di più diverso. E o paesi piccoli come l'Ecuador sono interessantissimi, non sono solo nelle Ande. Beh, poi è cambiato molto per la crescita, diciamo che, come lei sa bene, il Brasile è diventato una potenza economica mondiale, e paesi che parevano rassegnati alla povertà, penso al Perù, penso all'Ecuador, hanno fatto dei progressi straordinari, superando soprattutto il periodo delle dittature. Ormai la democrazia mi pare irreversibile in America Latina. Ecco, questo è un elemento certamente di fondo, questo successo della democrazia un po' in tutti i paesi. Ecco, dal punto di vista strettamente economico, il Brasile ovviamente ha grandi anche potenzialità, ma anche gli altri paesi si stanno risollevando, anche l'Argentina, che è un paese che ha vissuto il dramma del default, del fallimento, è avviato su una strada di crescita? È avviato su una strada di crescita, l'Argentina però nella sua strada di crescita uscita un pericoloso ritorno a politiche, diciamo, peronistiche, di chiusura protezionistica, di eccesso di tassazione sulle merci che esportano, sulle commodities come della carne e della soia. Ecco, quindi l'Argentina corre dei pericoli, ma vengono dalla politica, come invece il Brasile, come lei sa, è un frutto di una buona politica. 20 anni di due grandi presidenti, Fernando Cardoso e Lula, hanno creato le basi per lo sviluppo economico brasiliano. Ecco, c'è un passaggio nel libro in cui si dice il Messico non è il Sud America, anche se lo sta diventando. No. Ahimè sì, perché questo arrivo del narcotraffico, il fatto che la Colombia abbia superato il narcotraffico, i narcotrafficanti però si sono spostati in Messico. E quello che era un paese di lunghissima stabilità, pur essendo passato dal dominio del Partito Rivoluzionario Istituzionalista, intraprendendo una via di liberalizzazione con De Salinas, però il Messico adesso è invaso dalla questione della droga, che mette a dura prova la sua stabilità democratica. Allora, due domande rapidissime per concludere. Prego. Quale paese ha la migliore prospettiva economica su cui, diciamo, anche da un punto di vista finanziario meriterebbe puntare? Il Brasile, senza dubbio, che è un gigante fondato su una solida economia mista, su una grandissima capacità lavorativa dei suoi operai e dei suoi giovani. Non dimentichiamo però che l'America Latina è anche fascino, è anche cultura, è anche arte. E questa doveva essere appunto l'ultima domanda: chi vuole avvicinarsi all'America Latina non può percorrerla tutta, ovviamente, deve scegliere un paese. Da dove cominciare? Ma io direi che deve cominciare da due paesi, quello meno latinoamericano, che è l'Argentina, che è un pezzo d'Europa scagliata in America Latina, e poi soprattutto è un mix di immigrazione. E poi, se vuole conoscere l'America Latina più ricca, più fiorente di culture, di passioni, e la Colombia, che è un paese straordinario. Grazie a Giulio Sapelli per questo viaggio virtuale, ma che nasce appunto da un'esperienza reale in America Latina. Ricordo il libro, si intitola Diario Sudamericano, edito da Guerini Associati, consta di 173 pagine, costa 14,50 euro. Grazie a Sapelli e buonasera. Grazie a lei, grazie a... E dopo aver parlato di Sud America con Giulio Sapelli, parliamo di un tema completamente diverso. Parliamo in fondo di noi stessi e di quello che dobbiamo fare per renderci la vita migliore. E ne parliamo con Antonio Rainone. Buonasera, dottor Rainone. Buonasera a voi. Antonio Rainone, saluto agli ascoltatori. Grazie. Antonio Rainone è vicepresidente e fondatore dell'NVG, che è una delle più importanti realtà del settore della green economy, del fotovoltaico. Ma non parliamo di tecnica e di energia questa sera, ma parliamo di un libro che ha scritto, Scommetto su di te, il segreto del successo personale, con prefazione di Paolo Crepè ed edito da De Vecchi. Allora, perché, dottor Rainone, le è venuto in mente di scrivere un libro dedicato al successo, alle strade del successo? Beh, io in poche parole sono nato povero da una famiglia di emigrati, e quello che ho raggiunto l'ho raggiunto attraverso la passione, attraverso il superamento di mille ostacoli. La prima idea è stata quella di scrivere qualche cosa che potesse essere letto dai miei figli un domani, nel farli, come dire, sapere, vivendo in un momento di grande agiatezza loro, che per arrivare a certi livelli non è tutto scontato, ma si devono affrontare e superare cose improbabili, e come suo padre le ha affrontate, quali sono state le strategie di motivazione psicologiche attraverso le quali sono riuscito ad arrivare dove sono. Ecco, nella prefazione Paolo Crepè dice che è fondamentale per aver successo nella vita trovare la passione, che senza passione non si naviga, si sta fermi, anzi si torna indietro. Senza passione non si ama e non ci si ama, senza passione non si costruisce nulla, nemmeno un rapporto di amicizia. Ma per dirla con Manzoni, la passione uno se la può dare? La passione no, diciamo che mio padre, per parlare di passione, era un musicista, maestro d'orchestra, mio nonno violinista. Loro cosa hanno fatto? All'età di 4 anni mi hanno messo un violino in mano, e mio padre democraticamente mi ha detto: tu dovrai diventare un violinista. Dopo poco mi sono accorto che non mi piaceva lo strumento, però sono dovuto arrivare fino in fondo perché ne avevo le qualità. Sono diventato professore di violino, di pianoforte, ho insegnato. Dopodiché la non passione mi ha fatto attaccare il violino a un chiodo. Invece, con la terza media, ma con la passione dei rapporti personali, di creare reti commerciali, di, diciamo, fare impresa, ho letto qualsiasi cosa che mi potesse aiutare in questo, da una parte avendo le attitudini, ho attaccato senza passione il violino al chiodo, dall'altra parte non avendo una formazione scolastica, partendo da lezioni, voglio dire, private, così, certo, formazione e quant'altro, sono arrivato dove sono arrivato. Quindi sicuramente la passione ti aiuta a trovare la strada, senza la passione non nasce niente. Ecco, ci sono tante regole, tanti elementi, tanti suggerimenti in questo libro per affrontare appunto le situazioni della vita con un atteggiamento positivo, un atteggiamento costruttivo, un atteggiamento che tiene conto anche delle eventuali difficoltà, degli eventuali insuccessi. Quindi un libro che vuole offrire non tanto delle ricette precostituite quanto una volontà a ciascuno per affrontare la vita. Certo, ripeto, nelle difficoltà ho imparato a farmi le domande giuste, invece di dirmi ce la farò a superare quell'ostacolo, a dirmi che cos'è che non è perfetto per raggiungere diciamo il mio obiettivo. Tanti piccoli stratagemmi mentali per cui poter arrivare ad ottenere quello che volevo. E che cosa volevo? Non volevo soltanto un puro business, ma volevo una qualità di vita a 360 gradi. Quindi sugli hobby, sulla mia meravigliosa famiglia, io ho 3 figli, e sul business e all'interno del business con una squadra motivata in un momento così difficile, pieno di ostacoli e di una crisi che ti mette con le spalle al muro psicologicamente. Ecco, l'importante è affrontare, mettersi appunto in senso, in un atteggiamento positivo, e questo che vuol fare questo libro. Grazie ad Antonio Rainone di essere stato con noi a presentarlo. Ricordiamo il libro Scommetto su di te, il segreto del successo professionale, il titolo d'aggiunti, 192 pagine per 9,90 euro. Nella parte prima della puntata abbiamo parlato di Diario Sudamericano con il professor Giulio Sapelli, il libro edito da Guerino Associati, 173 pagine per 14,50 euro. Grazie dottor Rainone, grazie a Giulio Sapelli e grazie a quanti ci hanno ascoltato. Buona serata.